Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Benvenuti a tutte e tutti su Liberi Dentro Eduradio TV, la trasmissione che fa da ponte tra il carcere e la città e che va in onda su Lepida TV, canale 118, Tricolore, canale 636 e Radio Città Fujiko, ore 9 del mattino. Io sono Caterina Bombarda e oggi è lunedì 1 novembre e qui con me c'è Antonella Cortese. Buongiorno. Ciao Caterina, ciao a tutti. Allora, partiamo subito con la nostra rassegna di notizie e oggi leggo una notizia dal titolo un po' irreverente, diciamo, Carcere Porno, perché ne parliamo, ed è a firma di Luigi Manconi su La Repubblica. E questo perché è una storia questa di un detenuto sottoposto al regime 41 bis, quindi come sapete il carcere duro, e che ha chiesto di poter acquistare una rivista hard. E ne è nato un caso che è finito alla Corte di Cassazione e questa storia viene raccontata da Luigi Manconi anche per farci comprendere che cosa sia quella forma di massima privazione della libertà personale rappresentata dal carcere nella sua più potente capacità di coercizione. E la risposta della Corte di Cassazione qual è stata una volta che è stato presentato il caso? Nella sentenza vi si legge: anche a volerlo considerare un aspetto della sessualità, nella sua accezione più lata, l'autoerotismo non è impedito di per sé dallo stato detentivo. La fruizione di materiale pornografico costituisce uno dei mezzi possibili per la sua migliore soddisfazione, ma non ne costituisce un presupposto ineludibile e quindi nulla di fatto. Senti, ma perché la Corte Suprema ha dovuto esercitarsi su un simile tema, ricorrendo poi a degli strumenti che non sono i propri, diciamo, ma appartengono ad altri ambiti, scientifici, per esempio, no? Come mai? Tutto nasce per l'appunto da questa richiesta avanzata, come vi dicevo prima, dal detenuto di acquistare materiale pornografico. E un primo divieto venne dalla direzione del carcere stessa. A confermare questo intervenne anche un'ordinanza del magistrato di sorveglianza. Ma il ricorso davanti al tribunale di sorveglianza diede poi ragione al detenuto, tant'è vero che riconobbero la sua richiesta nell'ambito della libera manifestazione del pensiero riconosciuta all'articolo 21 della Costituzione e anche nella tutela dell'affettività in carcere come diritto all'interno dei luoghi di privazione della libertà personale riconosciuto l'articolo 8 della CEDU, la Convenzione Europea dei Diritti Umani. Quindi, secondo il Tribunale di Sorveglianza, il rifiuto opposto dalla direzione non era congruo né proporzionato a quella che era la richiesta della persona detenuta. Ma il Dipartimento di Amministrazione dei Penitenziari, il cosiddetto DAP, non se ne diede una ragione e ricorse così alla Cassazione. Quindi, per rispondere alla tua domanda, è stato un gioco di cercare l'autorità maggiore che esercitasse una sua opinione, una sentenza sul caso. Senti, a questo punto la Cassazione invece che come ha reagito? La Cassazione ha accolto il ricorso del DAP, evidenziando che questo divieto dell'ingresso appunto di riviste e materiale pornografico in carcere era legittimato in quanto la pluriennale ormai esperienza ha dimostrato che libri, giornali e stampa in genere sono molto spesso usati dai ristretti come veicolo di comunicazione verso l'esterno. E quindi in apparenza la ragione del divieto risiederebbe solo in motivazioni relative alla sicurezza e all'ordine pubblico. Ma è molto difficile non intravedere, dice Manconi, dietro questa sentenza qualcosa di altro e di molto più inquietante. E intanto la convinzione che il 41 bis debba essere per forza il carcere duro e quindi nulla va concesso. Ma questa è una visione sbagliata, siccome il regime 41 bis non prevede in alcun modo che la detenzione sia più afflittiva di quanto già non lo sia, bensì solo ed esclusivamente l'interruzione è questo regime dei rapporti tra il detenuto e l'organizzazione criminale esterna. Tuttavia, ciò che maggiormente colpisce è l'idea di un'autorità che si ritiene legittimata a interferire con la sfera più intima della persona umana, cioè quella della sessualità, a giudicarla, a vigilare sul suo equilibrio, a sindacare sulle qualità delle sue espressioni e a inibire e selezionare le sue pulsioni. E il carcere così diventa né più né meno che un dispositivo di mortificazione della soggettività umana. Ma per questa settimana, sempre prima di passare alle notizie con Antonella, scegliamo la playlist della settimana con Michael Jackson, The King of Pop, il re del pop, per le sue famosissime canzoni che conosciamo ormai tutti. Quindi ripercorriamo la sua straordinaria carriera attraverso le 5 canzoni più famose e oggi ascoltiamo Thriller, che sicuramente è la canzone più conosciuta. A tra pochissimo con Antonella. Of blood to terrorize your neighborhood, and whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. From every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver. For no mere mortal can resist the evil of the Thriller. Eccovi, bentornati sempre su Liberi Dentro di Radio TV. Ascoltiamo le notizie con Antonella, questa volta la finestra sul mondo la apriamo sull'Afghanistan. Cosa ci racconti? Caterina, non vi racconto niente di buono purtroppo. C'è un bellissimo articolo scritto da Francesca Mannocchi sulla Stampa che fa un'osservazione sulla nostra, diciamo, visuale sull'Afghanistan, ma proprio perché è successo qualcosa di gravissimo. C'è stata una decapitazione da parte dei talibani ad una pallavolista afghana. Sono passati 2 mesi scarsi dall'assalto all'aeroporto di Kabul e l'Afghanistan è stato progressivamente messo in ombra da altre notizie. Infatti sappiamo che ci sono state le campagne elettorali, l'assalto ai sindacati, le conseguenti manifestazioni di protesta, insomma siamo stati molto distratti e c'è quasi passato sotto l'uscio una notizia che ci è arrivata il 20 ottobre, cioè la morte della giocatrice della nazionale junior di pallavolo afghana, Mayabeen Hakimi. È stata decapitata i primi di ottobre. Solo che in Italia questa notizia noi è giunta soltanto a fine ottobre. Ma sai, non è che solo in Italia sia arrivata a fine ottobre, è che i Taliban avrebbero minacciato la famiglia di ritorsioni, intimandoli a non parlare con nessuno, finché poi non è stata diffusa sui social quell'immagine macabra della sua testa mozzata. Quindi insomma è stato un po' per paura, ecco. E ne avevamo parlato in passato di questi atleti, ricordi che avevamo seguito tutta la loro storia quando dovevano prendere quel famoso aereo per poter lasciare la capitale. Però la Hakimi è una di quelle che purtroppo non ce l'ha fatta a raggiungere l'aeroporto di Kabul e a salire su quel volo che l'avrebbe tratta in salvo. Oggi le foto del suo corpo brutalizzato diventeranno popolari, ma probabilmente non virali, perché ormai è un po' finito il tempo dell'emergenza. Il tempo dell'emergenza era quello delle partenze da Kabul e quindi adesso è il tempo quasi della normalizzazione. Ma se ci fermiamo un attimo a pensarci è veramente aberrante. E pensa che adesso i Taliban sono in tournée in giro per il mondo nel tentativo di aprire dei canali diplomatici con le comunità internazionali, cercando non solo di negoziare, ma di essere anche riconosciuti. E mentre insomma loro cercano legittimità, ricordano anche al mondo quello che sono stati. Sirajuddin Haqqani, già apparso nella lista dei ricercati dell'FBI con una taglia di 10 milioni di dollari, se non sbaglio, è attuale ministro degli esteri, ha elogiato il sacrificio degli attentatori suicidi che hanno attaccato i soldati statunitensi, definendoli eroi dell'Islam e del paese. E ha anche invitato i cittadini ad astenersi dal tradire le aspirazioni dei martiri, dando loro 10.000 afghani, alle famiglie ovviamente dei martiri, e destinando anche un appezzamento di terra a ognuno di loro, tanto per dire che personaggi abbiamo. E mentre i Taliban girano per il mondo, cercano nuovi canali diplomatici, la comunità internazionale cosa fa? Come si muove? Caterina, è molto difficile muoversi in questo contesto, semplicemente perché la comunità internazionale è preoccupata dall'emergenza alimentare di una popolazione che è ormai allo stremo, dell'eventuale ondata di profughi diretta in Europa, della possibilità di organizzare dei voli umanitari, e per regolare i voli umanitari si deve per forza parlare con i governi, cioè non si può tralasciare questo aspetto. Gli stessi governi però che stilano le liste di proscrizioni, che decapitano gli atleti, capisci che è una posizione veramente complicatissima, per cui da una parte si vuole andare via, da una parte e quindi non riconoscerli, dall'altra invece è necessario negoziare. E che cosa possono fare i mezzi di informazione, i giornalisti in questo senso? I giornalisti possono fare la cosa che devono fare i giornalisti, cercare documenti, vedere, raccontare, creare una memoria culturale collettiva. Nelle ultime due settimane del mese di agosto, per dire, ci sono state un sacco di pagine di giornali, ore di telegiornali che parlavano dei voli di evacuazione, anche noi infatti l'abbiamo fatto, no? Però abbiamo raccontato quello che succedeva a Kabul, all'aeroporto, mentre non stavamo più raccontando quello che stava succedendo intorno, e che era la cosa forse maggiore, più importante. Abbiamo perso un po' il senso del contesto. Oggi è il tempo dell'indignazione, rabbia e pietas. È il turno della pallavolista Mayabeen Hakimi, e il suo corpo praticamente testimonia, in assenza del nostro, cosa sta accadendo davvero in Afghanistan. Per rimanere su questo argomento, pensavo di lanciare un brano di Ivano Fossati, Mio fratello che guarda il mondo. Ascoltiamolo insieme. Mio fratello che guardi il mondo, e il mondo non somiglia a te, mio fratello che guardi il cielo e il cielo non ti guarda. Se c'è una strada sotto il mare, prima o poi ci troverà. Se non c'è strada dentro il cuore degli altri, prima o poi si traccerà. Fratello che guardi il mondo non somiglia a te. Mio fratello che guardi il cielo non ti guarda. Se c'è una strada sotto il mare, prima o poi ci troverai. Se non c'è strada dentro il cuore degli altri, prima o poi si traccerà. Buongiorno a tutti, siamo qui oggi con Carolina Sifontes, coordinatrice operativa del Servizio di Mediazione Interculturale per il Carcere di Bologna, e ci parlerà oggi del suo lavoro operativo all'interno della Casa Circondariale di Bologna. Ciao Carolina, innanzitutto spiegaci in cosa consiste la tua professione di coordinatrice operativa del Servizio di Mediazione Interculturale per il Carcere di Bologna, quindi per la Casa Circondariale di Bologna, e come funziona la giornata tipo di un mediatore all'interno del carcere. Ok, allora, nelle mie funzioni di coordinamento c'è una parte organizzativa molto importante, poi una parte di relazione e una parte del contenuto e di qualità del lavoro, per cui va dall'organizzare gli orari, no? Della giornata tipo del lavoratore, gli orari mensile, alla rendicontazione mensile delle attività svolte e delle ore erogate per il servizio, per dire, che è una parte un po' più amministrativa, che vanno alla cooperativa e poi in un secondo momento alla committenza. Mi occupo anche di coordinare la rete dei servizi, ossia tutto quello che è il rapporto dello sportello con il servizio, interno, con tutti i servizi interni del carcere, ma anche con la rete esterna dei servizi sociali fuori del carcere, e sto attenta alle possibilità di formazione, c'è un monitoraggio, vigilanza, progettazione per il sistema di qualità del servizio, alle relazioni semestrali che vengono realizzate su tutto il nostro operato all'interno del carcere, che poi va appunto alla committenza, in questo caso in ASP, alla individuazione, insomma, valorizzazione del gruppo di lavoro, le loro competenze individuali, organizzare l'equipe, no? L'equipe settimanale, la supervisione, l'assistenza alle riunioni di settore all'interno della nostra cooperativa, le riunioni e incontri con i responsabili dell'AS che si occupano del servizio, i rapporti appunto con le altre rappresentanti delle aree pedagogica, dell'area sanitaria del carcere e un po' anche la rappresentazione esterna del servizio, ecco, insomma. E spiegaci anche cosa ti ha spinto poi a intraprendere questa strada, a stretto contatto con le persone detenute. Guarda, io lavoro da tantissimi anni nel disagio, no? E soprattutto la cosa del carcere è molto particolare, perché io da quando ero già giovane ragazza in Venezuela, anche durante gli studi universitari, avevo un interesse particolare sul carcere. Diciamo che mi sono sempre occupata, ma anche da ragazzina, dei diritti umani, ossia i diritti quelli inappellabili, quelli di tutte le persone indipendentemente dalla condizione di dove stanno, di dove vivono, eccetera. Per cui, avendo lavorato dopo, quando sono diventata sia educatrice come mediatrice, ho sempre lavorato in questo settore. E il carcere è uno degli aspetti sicuramente più interessanti per sviluppare il tema dei diritti, perché è una delle situazioni più estreme, insomma, è un'istituzione totale. E quindi andava un po' da sé che dopo tanti anni mi è stato offerto il coordinamento di questo servizio e io non ci ho pensato due volte, sì. Ok. Sì. E adesso una breve pausa per un piccolo intervallo musicale. Dopo un breve stacco musicale siamo di nuovo qui in compagnia di Carolina Sifontes. Continuiamo la nostra intervista. Allora, tu Carolina ogni settimana interagisci con persone detenute all'interno della casa circondariale della Dozza e quindi ti chiedo chi sono nello specifico le persone con le quali hai a che fare in carcere, cioè quali sono le nazionalità magari maggiormente presenti all'interno del carcere? Sì, allora noi per le caratteristiche del nostro servizio che è mediazione internazionale, che è mediazione interculturale, noi abbiamo soprattutto a che vedere con la popolazione straniera che è in carcere. La maggior parte delle persone sono uomini fra i 20 e i 40 anni, con una percentuale molto alta di persone irregolari sul territorio, perché vi ricordo che purtroppo l'essere irregolare in Italia è ancora un reato penale e non amministrativo. E per cui non lo so, una persona che entra, che è a Bologna, che è in città, che è in Italia, che ha sempre lavorato e ha perso il lavoro e il suo permesso di soggiorno dipendeva tipo da questo contratto di lavoro, non essendo più rinnovato può diventare irregolare di un giorno all'altro, insomma, al momento, se perde, se gli scade il permesso di soggiorno, quando le scade anche il lavoro, difficilmente può essere rinnovato, questa persona diventa irregolare e questo è un reato penale. La maggior parte sono uomini, e la maggior parte delle nazionalità sono Marocco, Tunisia, Romania, Albania, abbiamo l'Africa sia anglofona che quella francofona a seguire, insomma, e poi tutta una serie di altre nazionalità, però in numero minore, insomma, abbiamo persone dei paesi dell'America Latina, abbiamo persone anche orientali, abbiamo persone del Bangladesh, del Pakistan, insomma, della Georgia, insomma, tantissime nazionalità, però la maggior parte, quella che determina il nostro servizio, cioè quella che determina le lingue per le quali il servizio presta il loro operato, sono la lingua araba, la lingua albanese e rumena, e a seguire chiaramente le lingue universali, insomma, quelle che vengono chiamate veicolare, che sono l'inglese, il francese, e vabbè, ha bisogno anche lo spagnolo, insomma, c'è molta meno richiesta, però anche quella. E poi abbiamo delle lingue, quelle meno, cioè un urdo, un cinese, a chiamata, cioè il servizio chiama la persona. Poi non solamente vediamo gli stranieri, perché in realtà lo sportello si occupa, ha delle ore educative anche sui detenuti italiani, nuovi giunti però, quando arrivano, in appoggio al servizio già pedagogico del carcere. E poi appoggiamo anche con delle ore educative il servizio dei dimittenti, quindi le persone che sono in uscita. E quindi queste persone le vediamo di tutta la nazionalità, certo, perché insomma chi è in uscita... Quindi queste sono le caratteristiche principali delle persone che stanno lì. Ottimo. Molte belle persone che possono avere familiare o meno. Per oggi con Carolina è tutto. Ci rincontriamo la prossima volta per un'altra intervista, sempre a parlare del lavoro e della funzione dei mediatori all'interno del carcere di Bologna. Siamo giunti a saluti di fine puntata. Seguite anche le nostre rubriche. Oggi parliamo di... dove abbiamo le lettere dal carcere, lette dall'associazione Leggio e commentate dalla sociologa, la professoressa Chiara Scivoletto dell'Università di Parma. Io ovviamente vi do un carissimo saluto, vi ricordo di iscriverci, redazione liberidentro@gmail.com, e intanto un saluto sempre da me, che sono Caterina, da Antonella Cortese e da Nea Flacco. A domani, grazie. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.